slick chick. She, a neat chick, but she's what makes me tick. Mama, hey, hey, hey. Clickety click, a slick chick. Hey, hey, hey, hey. A high heels on for the baby blues. The very first time, man, oh man, hey. It was a night. Hey, hey. Hey, hey. But everybody stopped, we're on a dime to look. Hey, hey. Even my heart, my heart got a shook. Hey, hey. Hey, hey. She's my clickety click, I'll switch it. She's Miss Rhythm. She's with me right. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick, but she gotta make me tick. Mama, yeah, clickety click, a stick chick. Yeah, don't you know she's a stick? Mama, a stick chick. Ah, yeah. Chick. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. I got a crazy little chick. Yeah, yeah. I don't you know she's slick. Benvenuti e benvenuti a Slick Chick, la seconda puntata, che oggi, visto che qua davanti alla regia fuori dalla finestra sta piovendo e diluviando tantissimo, visto che tra un pochino è Halloween e visto che sta iniziando a fare freddino, la dedicheremo questa puntata alle streghe. Le streghe di vario tipo, quelle più vecchie, antiche, meglio, ma anche streghe più moderne, più antipatiche, non solo quelle simpatiche. Comunque, piano piano nel corso della puntata vedrete tutti i vari tipi di streghe che mi sono venuti in mente per voi. Allora, siete su Radio Wombat, ovviamente lo sapete perché siete passati dal nostro sito, quindi non vi dovrei dire il nostro sito, ma ve lo ridico, wombat.noblogs.org. Gli altri contatti che piano piano stiamo aprendo per farvi socializzare con il Wombat sono i super social Twitter, twitter.com/radiowombatfi. Perché sì, effettivamente ci sono altre Radio Wombat, ma a Firenze solo una ce n'è. E poi abbiamo Facebook, per chi si ostina a usare questo stupido mezzo, che è la pagina Facebook è Radio Wombat Firenze. E poi abbiamo una antichissima vetusta mail che potete usare per contattarci, scriverci, darci consigli, improperi, complimenti e quant'altro, che è postawombat@insiberia.net. Basta, vi ho detto tutti i contatti, vi ho detto le cose che si dicono in genere all'inizio di una trasmissione come tutti i bravi DJ, e ora... Niente, vi spiego un pochino la puntata dedicata appunto alle streghe, ma prima di tutto la dedica, perché questa puntata sarà interamente dedicata a una strega che è la più, in realtà la strega più importante di Firenze, che voi non lo sapete, ma si sta riprendendo da una antipatica operazione e quindi è in ospedale che dorme e si riposa, e noi gli dedichiamo un sacco di riti propiziatori e incantesimi e questa puntata. E le streghe, dicevamo, le streghe vario tipo, quelle che risalgono al Medioevo sono sicuramente quelle che affascinano di più, almeno me, e in realtà quindi quello che vi faccio sentire, il pezzo che vi faccio sentire subito è un pezzo dalle tonalità medievali, in realtà non è affatto medievale perché è stato fatto nel 2012 ad opera di dei nostri amici che in realtà sentirete ai nostri microfoni in viva voce direi tra pochissimo, ma non vi voglio svelare troppo, e sono i Gargamella. I Gargamella hanno fatto questo pezzo, Sibyl, che hanno palesemente, comunque anche a loro detta, dedicato alle streghe. Quindi ve lo faccio sentire e poi basta e poi andiamo avanti. Thank you. E questi erano i Gargamella, come abbiamo detto prima. Mi sono dimenticata di dirvi il titolo dello spezzone che è partito dopo la sigla, che ormai dovreste iniziare a aver conosciuto. La sigla era Slick Chick di Vernon Harrell. E dopo c'è stato questo spezzone tratto dal settimo sigillo, che era il dialogo con la strega. Quando dobbiamo pensare a dei titoli, dei pezzi musicali dedicati alle streghe, probabilmente, non so voi, ma a me uno dei primi che mi viene in mente è I Put a Spell on You di Screaming Jay Hawkins. Questo pezzo è un pezzo del 1959, bello anzianotto, e Screaming Jay Hawkins è un personaggio piuttosto interessante e particolare, e si può considerare il primo esponente dello shock rock, quello che viene considerato lo shock rock, ovvero magari poi ci dedicheremo una puntata speciale al mondo dello shock rock, chissà. Però diciamo che si trattava di di tutti quei personaggi, artisti musicali che si esibivano sul palco in maniera scioccante, almeno per l'epoca. C'era Screaming Jay Hawkins, c'era Alice Cooper, ce n'erano 2000 altri, anche il glam, peraltro, non shock soltanto di tipo orrorifico, ma anche di altra natura. Screaming Jay Hawkins, oltre appunto a venire considerato per questo, è anche uno dei padri dello psychobilly. Di fatto tutti hanno un po' preso da Screaming Jay Hawkins, dai Cramps, ma anche tutto lo psychobilly ancora più antico. Screaming perché appunto era un urlatore, lo sentirete in questo pezzo, ma ci sono tantissimi altri pezzi dove lo è ancora di più. Urla in una maniera estremamente sguaiata per l'epoca, e quindi veniva considerato un pazzo furioso urlatore. A un certo punto della sua carriera un DJ gli offre dei soldi per esibirsi entrando in scena emergendo da una bara. Lui ovviamente dice sì subito, e da lì in poi questa cosa gli piace talmente tanto che quasi sempre sul palco sale, appunto appare emergendo da questa bara. Screaming Jay Hawkins è nato nel 1929, ha una storia abbastanza strappalacrime, perché è cresciuto in un orfanotrofio, perché abbandonato dalla madre perché aveva troppi figli e non riusciva a permettersi di averne un altro. Quasi subito, in realtà già da ragazzino, piano piano si appassiona al pugilato, diventa un pugile, anche pare discreto. Per un po' di tempo affianca la carriera pugilistica a quella della musica, finché poi non diventa troppo famoso come musicista, e allora decide di scegliere la musica. È stato sposato 6 volte e pare che sia padre di almeno 57 figli. È un personaggio appunto interessante, uno degli album tributo a lui si chiama Black Music for White People, e secondo me rende benissimo lo spirito di Screaming Jay Hawkins, che essenzialmente prendeva in giro tutti i bianchi dell'epoca, si parla appunto degli anni 50-60. Lui saliva sul palco oltre a uscire da una bara, ma si vestiva anche da stregone voodoo, con un osso al naso, piume, amuleti, e faceva tutto uno show che palesemente era una presa per il culo di ciò che il bianco, l'uomo bianco americano medio, poteva pensare dell'esotico nero che cantava e intratteneva il pubblico. In realtà poi lui è diventato famosissimo, questo pezzo probabilmente è il suo più famoso, ed è stato oggetto di cover praticamente di chiunque. Una tra l'altro, potrei dire la più importante, in realtà è stata fatta sul palco dell'Emerson 2 settimane fa al cabaret, però lo possiamo sapere solo noi pochi eletti che c'eravamo. Le altre un po' più popolari, c'era ad esempio Nina Simone di Amanda Galas, di cui poi parleremo dopo, non vi farò sentire ora la cover sua, però è molto bella, andatevela a sentire. E addirittura nel 1981 Tim Curry, che ve lo ricorderete, era l'attore protagonista del Rocky Horror Picture Show, quindi effettivamente era perfetta per lui. E niente, ora vi faccio sentire I Put a Spell on You. Dedico a Giovanni Fiore di Puglia, se mi sta ascoltando, perché gliela dovevo mettere sabato scorso quando mettevo i dischi insieme a lui e me ne sono completamente dimenticata. Allora mi perdonerà, gliela faccio sentire adesso. I Put a Spell on You. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? People are sleeping tight. Well, is she coming knocking? gonna make you, cause she's a witch. Wow, witch. Wow, witch. Wow, witch. E questi erano i Fastones con The Witch, che vabbè, come avrete potuto intuire, parlava appunto di streghe. I Fastones in realtà hanno dedicato diversi pezzi alle streghe, e questo che abbiamo appena ascoltato era uno di questi, ma insomma potete ascoltarvene decine di altri con i significati più strani e non sempre letterali. Continuando a parlare di canzoni che parlano di streghe, troviamo Marianne Faithfull. In realtà il pezzo che vi faccio sentire si chiama proprio Witch's Song, la canzone delle streghe. È un pezzo del 1979 dell'album Broken English. Il 1979 è l'anno del ritorno alle scene di Marianne Faithfull dopo anni di eroina e anoressia e tutto quello che si faceva abitualmente in quelle scene, in quel periodo, non solo in quel periodo, ma in particolare in quel periodo, sì. Si era appena lasciata con Mick Jagger, aveva perso malamente la custodia del figlio, insomma non era stato un bel periodino per lei. Nel 79 ritorna alle scene con, oltre a tutto ciò, anche alle spalle numerose laringiti, dovute sempre all'eroina e a tutta la bella vita che faceva, e fa questo album che, se lo ascoltate bene, in cui lei ha una voce roca e rotta più volte proprio, e che secondo me lo rende in realtà un album bellissimo proprio per questo. Intorno al 75, quindi poco prima, era andata a vivere in uno squat a Chelsea insieme al fidanzato dell'epoca, Ben Brilli, dei Vibrators, e comunque aveva iniziato a frequentare tutta la scena punk lì intorno a Chelsea. Qualche anno dopo, quindi nel 1979, esce Broken English, appunto, e il primo pezzo omonimo, Broken English, lo dedica a Ulrike Meinhof. Secondo me è proprio un bell'album, e questo pezzo in realtà ovviamente non parla di streghe in senso letterale, come sentirete, anche potete andare a leggervi il testo, tanto è un pezzo famosissimo, lo trovate, e, però secondo me è molto bello e appropriato. Yeah. E abbiamo parlato finora di canzoni che parlavano di che raccontavano vari tipi di streghe. Adesso invece vorrei parlare di streghe vere e proprie, cioè non canzoni che parlano di, ma proprio streghe vere. Dando per assunto che le streghe non necessariamente sono femmine, ma possono anche essere uomini o quant'altro. La prima che vi voglio far ascoltare è secondo me la strega per eccellenza, ovvero Diamanda Galas. In realtà Diamanda Galas basta sentire uno a caso dei suoi pezzi per rendersi conto che probabilmente la voce più demoniaca e satanica mai sentita finora, oltre a una delle più belle voci secondo me in generale al mondo, almeno per adesso. È una di origine, una cantante di origine americana, con in realtà è americana ma ha origini greche, come si capisce anche dal nome. Una pianista, compositrice e definita cantante sperimentale, in effetti sperimentale perché i suoi pezzi sono delle vere e proprie litanie. C'è anche un album intero che si chiama Litania di Satana, che vi consiglio di andare a sentirvi. E suoni gutturali, gorgogli vari, e insomma è una cantante che riesce a fare veramente un po' di tutto con la propria voce. Tra tutto, se non la conoscete, tutto quello che potete sentire è bello. In realtà secondo me non proprio tutto, alcune cose non gli sono riuscite benissimo. Vi consiglio piuttosto gli album e le composizioni più vecchie o quelle che risalgono agli anni 80, soprattutto i live, perché vale la pena di vederla anche proprio live, quello che fa e come lo fa. E un altro disco invece un po' di tempo dopo, perché invece degli anni 90, è Sporting Life, che ha fatto con John Paul Jones, il bassista delle Zeppelin, che è un album di sola voce, basso e batteria, che secondo me è veramente bellissimo. Nello stesso anno di nascita della Galas, ovvero il 1955, non l'avevo detto, nasce un'altra strega, una streghetta un po' meno inquietante, ma insomma neanche poi tanto. Tedesca, nasce a Berlino Est, Nina Hagen. Appunto, nasce a Berlino Est e espatria dopo qualche anno insieme al patrigno, che era un dissidente politico della DDR, e finisce prima nella Germania dell'Ovest e poi a Londra. È un crescendo di esperienze, ovviamente, di mondi che si allargano, passare dalla DDR alla Germania Ovest e poi alla Londra, dove in quel periodo, negli anni, si sta parlando di quando lei aveva intorno ai 20 anni, quindi i primi anni 80, 70-80, Londra chiaramente era il fulcro del mondo per i giri punk, e lei è entrata ovviamente in quel circolo diventando subito amica degli Slits, dei Sex Pistols e un po' tutti quelli che frequentavano quella scena. Veniva chiamata, pare, la regina del punk, perché essenzialmente era parecchio più grande degli altri che panchettini che al tempo avevano 15-16 anni. Lei ne aveva già 22-23 e quindi risultava una veterana. Da Londra lei si muove poi nella Germania di nuovo in Germania dell'Ovest e poi se ne va in America, dove trascorrerà un bel po' di tempo. È una cantante considerata molto scandalosa, iconoclasta, a buon ragione secondo me. Per esempio, tra le varie cose che erano sgradite alla morale dell'epoca, non solo dell'epoca, a un certo punto si sposò a metà degli anni 80 un punk sedicenne, lei ne aveva 31 all'epoca. Un personaggino insomma interessante da vedere, penso che molti di voi la conosceranno. Ha fatto musica di vario tipo, surfando tra i vari generi. Ora vi faccio sentire appunto questi due pezzi, uno di seguito all'altro, di queste due streghe di cui vi ho parlato. Il primo è di Diamanda Galas, è Dancing in the Dark, dove lei è sola al piano e suona questo piano effettato, quasi scordato, molto cupo e satanico. E dopo invece ha seguito a botta, sentirete Nina Hagen con un pezzo che si chiama So Bad. Dancing in the dark till the tune ends. We're dancing in the dark and it soon ends. Waltzing in the wonder why we're here. Time is by, we're here and gone. Waltzing in the light of a new love, dancing in the light. I have you, love, and we can face the music together. Dancing in the dark, dancing in the dark, dancing in the dark, dancing in the dark. And it soon ends. Waltzing in the wonder of why we're here. Time is by, we're here and gone. Waltzing in the light of a new love. We're dancing in the light. I have you, love, and we can face the music together. Dancing in the dark, dancing in the dark. In the dark. E dopo sta tamarrata che vi ho propinato, e adesso torniamo alle cose un pochino più seriose. E anche se in realtà mi rimproverano che è una trasmissione troppo seria, però ora lo diventerà ancora di più, perché parleremo di streghe, quelle storiche, e in particolare del processo alle streghe di Salem. Nel 1692, nel villaggio di Salem, nel Massachusetts, che è difficilissimo da dire, Elizabeth Betty, cosiddetta Parris, e Abigail Williams, rispettivamente la figlia e la nipote del parroco Samuel Parris di Salem, del villaggio di Salem, iniziano a comportarsi in una maniera un po' strana e inusuale. Se ne stanno in silenzio, si nascondono dietro vari oggetti e strisciano sul pavimento. Evidentemente la gente del villaggio decide che si tratta di possessione demoniaca, cioè è evidente a tutti, cioè cos'altro potrebbe essere. E inizia quindi un lunghissimo processo alle streghe, per l'appunto, per cercare di capire da cosa derivava questa possessione e chi era il colpevole, e quel processo che finisce con il coinvolgere centinaia di persone, in gran parte donne. Ovviamente, Betty e Abigail, le due prime vittime, sotto tortura accusano una schiava caraibica, Tituba Indians, anche questo, che incredibile scoperta, ovviamente, accusano la schiava che era di proprietà del pastore Parris, quindi del padre. Ovviamente Tituba viene subito incarcerata, viene torturata e ovviamente confessa. Le confessioni, come da copione, vengono estorte appunto sotto tortura, e le testimonianze raccolte parlano di cose veramente inconfutabili, come visioni e sogni. La vicina di casa che accusava l'altra vicina di essere una strega perché l'aveva visto in sogno, per capirsi. Una delle prove schiaccianti, veramente schiaccianti, contro gli imputati, ad esempio, era il fatto che non fossero in grado di recitare perfettamente a memoria le preghiere cristiane. Qualcuno, non lo so, a me è venuto in mente, qualcuno potrebbe notare un'analogia con le esecuzioni dell'Isis e gli interrogatori sulla conoscenza del Corano che abbiamo visto nell'ultimo periodo. Però è un'illazione completamente infondata, e restiamo a Salem perché comunque è più semplice, perché è una storia molto vecchia, lontana, e quindi è più facile, non ci impelaghiamo. Si diceva, Salem, vengono arrestate altre due donne oltre a Tituba, ma in realtà le manifestazioni, le cosiddette manifestazioni di possessione demoniaca, che poi in seguito, negli anni dopo, è stata chiamata isteria, continuano in realtà in altre adolescenti, quindi non si fermano con l'arresto di Tituba e delle altre due donne. Così continua ancora la caccia alle streghe e va avanti per altri mesi. Alla fine, al termine del processo, furono giustiziate per impiccagione un totale di 19 persone. Un uomo venne schiacciato a morte per essersi rifiutato di testimoniare. 150 sospettati furono imprigionati e altre 200 persone furono accusate di stregoneria. Se si pensa che all'epoca il paese di Salem contava comunque pochi abitanti, si è trattato di un processo effettivamente piuttosto importante, ecco. Una delle prime accusate, Sarah Osborne, muore in carcere insieme alla figlia appena nata. Tant'è che poi da tutta questa cosa, ovviamente per ovvie ragioni, ne è nata una leggenda che arriva fino ai giorni nostri, e Salem è diventato un po' oggetto di culto, e ovviamente si ricorda tutto a tutt'oggi. Questa è, per sommi capi, la storia di Salem. E questo invece è un pezzo dei Big D Kids Table, un gruppo che io ignoravo assolutamente, che è un gruppo ska punk, invece piuttosto interessante, americano, e il pezzo si chiama Salem Girls. Have you made no contact with the devil? No. Then why do you hurt these children? I do not hurt them. I scorn them. You are charged with contracting the devil. And yet to see you stand there with dry eyes when there are so many wet. You do not know my heart. I am as clear as the child unborn. Then what do you say of all this? Why, God will know. Nay, God knows now. I know he does. Confess if you be guilty. I will say it. If it was my last time, I am clear. Of what sin? Of witchcraft. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Questo era, in realtà invece non ve l'avevo annunciato, ma subito dopo, questo che avete appena sentito, era Brian Eno insieme a David Byrne, The Jezebel Spirit, e secondo me un pezzo fighissimo, e quello che sentivate sotto era la registrazione vera, verissima di un esorcismo. Siamo stati finora un po' nella storia a guardare quelle che erano le streghe medievali o del 600, in realtà adesso ci spostiamo sulla storia un po' più recente e arriviamo a delle streghe che non sono simpatiche, quelle finora, cioè quelle di cui vi abbiamo parlato finora, almeno a me personalmente stavano tutte piuttosto simpatiche e mi veniva da solidarizzare con loro. Ma purtroppo non tutte sono così. C'è un disco dei Chumbawamba la cui storia vale la pena di essere raccontata. È un disco molto speciale, è stato registrato nel 2009 e annunciato ai fan poco dopo, sempre nel 2009, ma conteneva un'avvertenza. Si trattava di un disco registrato per celebrare la morte di Margaret Thatcher e per averlo bisognava aspettare che appunto la Thatcher morisse. Quindi di conseguenza immaginerete si creano un sacco di aspettative intorno appunto a questo evento della morte della Thatcher e di conseguenza della pubblicazione del disco. Tutti iniziano ad augurarsi che la simpaticissima vecchietta schianti, perché, cioè no, ovviamente non perché gli si vuole del male assolutamente, ma perché tutti aspettiamo il disco di Chumbawamba. E quindi purtroppo tocca che la Margaret Thatcher simpatia muoia. Ma è incidentale, insomma, ecco quello che ci interessa il disco. L'8 aprile del 2013, quindi un po' di anni dopo da quando i Chumbawamba avevano pensato questo disco nel 2009, Margaret Thatcher muore. Grande evento, gli inglesi si riversano in strada brindando e festeggiando. Potete guardare, se la cosa vi interessa, secondo me è molto bello guardare i video che ci sono, si trovano su YouTube, di della gente che si riversa in strada veramente con le bottiglie di champagne, ma tanti, e brindano e si sbronzano per una nottata intera a brindare alla morte della Thatcher. Finalmente quindi Chumbawamba inviano il disco a tutti quelli che l'avevano coprodotto. In questo disco i riferimenti sono tantissimi, direi che il più ovvio sono le campane del Mago di Oz. Non so se avete presente Mago di Oz del 1939, non so se avete presente la canzoncina Ding Dong the Witch is Dead, Ding Dong the Witch is Dead. In pochi giorni questa canzoncina è saltata in testa alle classifiche dei singoli inglesi, creando un imbarazzo in Inghilterra non da poco. Questo disco contiene tutta la spiegazione di come è stato partorito e tutto quanto, e alla fine c'è la dedica finale, tutto l'intero disco i Chumbawamba lo dedicano ai familiari delle vittime della Thatcher. Ve lo faccio sentire tutto in realtà questo disco, perché ahimè si tratta di un disco piuttosto piccolo, dura 10 minuti, sono 6 tracce, ma alcune veramente minuscole, e in tutto appunto sono 10 minuti. Vale la pena secondo me di sentirselo tutto, perché getta un po' di allegria e a me piace un sacco. The ladies not for turning. So long, so long, let me serenade. business is not. See or hear it. Baroness Thatcher, who, as Margaret Thatcher, was Britain's first woman prime minister, has died. Oh, signore, usted mi aiutò. Quando todo alrededor mi dicono, como una roca nos unimos, deje al pobre y se pobre, por favor. It is not merely stunned, it has ceased to be, expired, and gone to meet its maker. Alfred and Beatrice and Muriel too, over the shop where the train passes through. Play happy families, the cards fall in pairs. Alderman preacher runs up and down stairs. Muriel, a sister, but never a friend. Kept well apart in the same gable end. Following father at odds with the world. Chip off the old block, the scholarship girl. Not any better, the devil you know. Waiting for Margaret to go. Not any better, the devil you know. Waiting for Margaret to go. Oh, waiting for Margaret to go. Oxford for chemistry, mend and make do. Society turned her the truest of blue. Back in the shop, Mr. Roberts had taught that people like flour can be sold and be bought. Masters above and servants below, waiting for Margaret to go. Masters above and servants below, waiting for Margaret to go. Oh, waiting for Margaret to go. Up to the house where the loyalty wears, thinner than carpets on father's old stairs. Her friends like her enemies stretched on the rack. Play happy families but don't turn your back. The grocers and Methodists lay her down low, waiting for Margaret to go. The grocers and Methodists lay her down low, waiting for Margaret to go. Waiting for Margaret to go. Alfred, he closes the shop one more time. Little girl singing her nursery rhymes. Here comes a candle to light you to bed. Here comes a chopper to chop off your head. Down with the shutters and on with the show. No more waiting for Margaret to go. Down with the shutters and on with the show. No more waiting for Margaret to go. No more waiting for Margaret to go. So they do. The ladies, not for turning. Questa era In Memoriam di Margaret Thatcher dei Chumbawamba, appunto. E sì, effettivamente si trattava di una vera e propria strega, non c'è versi, però era appunto una strega antipatica, brutta e cattiva, e siamo tutti molto contenti che sia schiantata. Ora veniamo a invece dei personaggi parecchio più simpatici. Il prossimo pezzo che vi faccio sentire è un altro pezzo che è non mainstream, ma di musica nostra, di musica di amici e amiche. E il prossimo pezzo è di Lily Refrain e si chiama Not Now, dal il primo album che ha fatto nel 2007. Lily Refrain è una chitarrista romana autodidatta, tra l'altro, molto brava, a noi sta molto simpatica, ha suonato a Firenze un sacco di volte, Firenze e provincia ovunque, è sempre in giro a suonare, e la sentirete, una delle sue peculiarità è accompagnarsi, è da sola, e si accompagna con una loop station e mette in loop sia la chitarra che la voce, crea delle atmosfere non sempre uguali, a volte un po' più cupe, a volte meno, comunque sempre molto belle secondo me. E quindi ora ve la faccio sentire, secondo la metto in questa puntata perché è una streghetta anche lei, e quindi ve la faccio sentire. Thank you. Siete sempre a Slick Chick su Wombat Radio o Radio Wombat o quello che volete. E quella che avete appena sentito appunto era Lily Refrain con No Now. E adesso invece cambiamo, non di tantissimo, ma insomma un po' sì, perché andiamo a sentire i Black Sabbath. In una trasmissione dedicata alle streghe non possiamo non far sentire Black Sabbath, anche se, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, il nome del gruppo, lo saprete, non deriva dal banalmente dal rito del sabba, come si potrebbe noi ingenui pensare. In realtà deriva da un film horror del 1963 di Mario Bava, che con le streghe non aveva un rapporto, diciamo, direttissimo. Era un film horror, appunto, ma non parlava necessariamente di streghe. Il film si intitola I tre volti della paura, pubblicato all'estero con il titolo, appunto, di Black Sabbath. È un film a episodi che Mario Bava dirige con lo pseudonimo di John Hold. I tre episodi parlano di... sono varie storie. Una parla di vampiri, un'altra parla di una sorta di amore maniacale che poi sfocia in follia distruttiva, e di poltergeist, storie fantasmose. La versione destinata al mercato americano differisce in realtà da quella internazionale, perché ovviamente è stata tagliata brutalmente. Le differenze sono significative in realtà, perché ad esempio nel primo episodio c'è un riferimento palese, che regge peraltro tutta la storia, un riferimento al rapporto lesbo tra le due protagoniste. In America questa cosa viene considerata troppo esplicita e troppo scandalosa, viene tagliato brutalmente, e quindi la storia di fatto ne viene fuori come una storia di fantasmi offuscata, dove non si capisce bene la trama, come spesso succede quando vengono fatti questi tagli intelligentissimi di censura, e di fatto non si capisce molto bene la natura del rapporto delle due donne e di fatto perché succede tutto sto casino che succede. E niente, in realtà il pezzo che non c'entra molto, però era il titolo a richiamare un po' le streghe. E ovviamente cosa vi posso far sentire se non l'omonimo Sabbath Bloody Sabbath dei Black Sabbath. Questi erano i Black Sabbath, non potete non averli riconosciuti. E stiamo per finire l'ultimo pezzo e poi abbiamo chiuso e vi lascio alla prossima trasmissione, perché eccezionalmente in realtà da questa settimana, poi tutti i mercoledì vi troverete con due trasmissioni una di seguito all'altro, perché dopo di me ci sarà 8 Hertz. Quindi non potete andare a dormire, che andate a fare a dormire. E vi saluto, vi ricordo il nostro sito da cui collegarsi per sentire lo streaming, che è wombat.noblogs.org, dove trovate anche tutte le informazioni su il palinsesto ancora scarno e in fase di aggiornamento e le trasmissioni. Domani, prossima trasmissione alle 7, ho qui chi trasmetterà, e quindi alle 7 mi confermi? Sì, alle 7 domani l'Accademia della Brusca, che è un'altra trasmissione che non potete assolutamente perdere, che vi insegnerà a far di conto e a parlare come si deve. Vi salutiamo, un saluto anche a Glo che ci ascolta dal nuovo computer fiammante, e vi lascio con Lydia Lunch e Blame. I gotta let you go, watch you walk away. Never meant to hurt you or to cause you more pain. I gotta let you go, it's as cool as it seems. Didn't wanna tie you down just to keep you with me. Used to live in heaven, drowning your blue black eyes, melting to the night sky, evaporate the hours. wanna lose you to these dangerous games. Gotta let you go, don't ask me to stay. Never meant to hurt you, but cause you more pain. And we lost each other to a force that we could not name. Whisper prayers to forgiven saints. I beg the devil to keep you safe. More pain.